Allora, brevemente io ho solo il ruolo di coordinare, per il momento presento la scaletta della serata, poi mi verranno sicuramente delle domande anche cattive magari da fare ai due Andrea Merli e Andrea Bonini che hanno lavorato per tantissimo tempo per il VIS è un'ONG, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, presente in Palestina dal 1990, ma è presente in diverse altre zone di conflitto tra il Medio Oriente e l'Asia. È un'agenzia educativa, quindi i progetti puntano più sull'educazione e anche il progetto del vino Cremisan, in realtà, se non sbaglio, è nato proprio per sostenere le scuole che ci sono a Betlemme, le scuole, noi le chiameremmo artigianelli, tradotto in italiano, professionali, che avviano ragazzi e ragazze ad un mestiere. Bene, per sostenere economicamente questo c'è il progetto del vino, che poi in realtà è tanto altro. La serata funziona così, adesso guarderemo un video girato dalla giornalista Alessandra D'Asario, dura una decina di minuti, dopodiché Andrea Merli, che è stato per tanti anni, dal 2004 al 2009, coordinatore del master tra l'Università di Pavia e l'Università di Betlemme per il VIS, ma è anche tanto altro, attivista, fotografo, papà, neopapà. E farà un intervento lui e poi Andrea Bonini, che attualmente è coordinatore del progetto Cremisan in Palestina e si entrerà forse più nel vivo di quello che è la declinazione con il vino e la terra palestinese, come vi dirà molto meglio di me Andrea, una terra che offre dal punto di vista proprio della terra tante possibilità per fare vino, ma che non è a livelli eccellenti per la produzione di vino, scusami se mi permetto, per altri problemi che sicuramente tu spiegherai molto meglio. Comunque sia, ci sono dei miglioramenti ed è importante che ci sia un progetto anche di questo genere. In ogni momento, ovviamente dopo il video, benvenute sono le domande, le curiosità, le provocazioni, le contraddizioni che volete mettere in luce. Siete libere e liberi di fermare chi è la persona che sta parlando in ogni momento per intervenire. Il video.